notti senza te accanto a me. Ricordo l'aria che diventa amara poesia su quelle pagine scritte da me e da te. Eravamo noi a viverle dentro al nostro cuore troppo fragile. Tutto per conservare niente tra le pagine del diario scritto da me da te. L'unica ragione è la convinzione che eravamo noi gli autori di quelle pagine. Ricordo noi oramai divisi sempre più dal dolore di un amore che non c'è. Ricordo quel diario dove scrivevi tu la storia che parla di te e di me. Eravamo noi a scriverle senza inchiostro, solo amore. Niente tra le pagine del diario scritto da metà.